io così non ci resisto più. Sopporto più l'idea del corpo tuo e del suo che può toccare te. Rimani, rimani e lasciati un po' andare, dai. Domani, domani tu qualche scusa troverai. Rimani, rimani, telefonargli puoi da qui. Rimani, rimani e digli dormo fuori già. Ritornerai se vuoi.